guarda il mondo, ma ricorda è solo un velo. Fenomeni in ogni sguardo, il noumeno resta in cielo. Stesse forme, stessi schemi, a priori nella mente. Così crediamo oggettivo quel che è solo relativamente. Ma poi arriva Fit che dice: Dio crea il mondo che vede. Non c'è un dietro, non c'è un oltre, solo ciò che in atto accede. Io che pongo il mio confine, io che spezzo il mio limite profondo. Nel gioco eterno tra io e non io nasce l'uomo e nasce il mondo. E nasce il mondo. Desidio si dà da solo, io puro infinito. Forma e vita nello stesso atto primo mai finito. Antitesi sorge il non io, divisibile e frammentato. Tutto ciò che chiamo mondo, ciò che incontro e che mi è dato. Sintesi un io limitato, che però può ancora creare. Io e te essere finiti, con la voglia di superare. Fit che ancora ci ricorda, lì è infinito si misura. Solo contro il suo contrario, solo dentro la fenditura. Io che pongo il mio confine, io che spezzo il mio limite profondo. Nel gioco eterno tra io e non io nasce l'uomo e nasce il mondo. Arriviamo mai a Dio, titanico movimento dell'uomo contro il proprio io. Record, tecniche, conquiste, arte e corpi oltre il traguardo. E perfino la tempesta della guerra come dardo. Discorsi a una nazione che si vuole liberare, ma la storia poi ci insegna che morale può bruciare. Da quest'io che si fa assoluto nasce il mondo moderno che vedo. Positivismo innamorato di ogni legge, di ogni credo. Consumismo, anarchia, capitale senza freni. Libido sciolta, instancabile, cresce e spezza tutti i freni. Fascismi e criminalità nell'ombra dello stesso sfondo. Volontà che si fa potenza, schiacciando il resto del mondo. E finché ride amaro in fondo, guardate cosa avete fatto. Un io che vuole solo crescere, non risponde mai del patto. Io che pongo il mio confine, io che spezzo il mio limite profondo. Se per diventare Dio distruggo l'altro, perdo il mondo. Io assoluto razional Dio, o forse inconscio travestito, energia a cui l'uomo tende, noumeno mai definito. Psicanalisi che scava, comportamenti da cambiare, per forme sempre migliori, non smettere di adattare. Eracliteo questo io, sempre in moto mai identico, contro l'essere di Parmenide, fermo immobile splendido. Curiosità che si disperde tra le cose, tra le offerte. Ma se l'io per essere libero non dovesse più schiacciare, se la via fosse la cura e non solo il dominare. Una scolastica della cura, non del ferro e del terrore, dove l'altro non è il limite ma la misura del mio cuore. E allora canto un altro finché Dio crea il mondo.